But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Tutta l'Italia praticamente sotto la neve, noi in Sicilia godiamo di ben 16 gradi, insomma è una cosa non da poco, non a caso insomma viene definita la California dell'Italia, la Sicilia, beh, siamo contenti insomma di questo, però anche un po' di neve ogni tanto non farebbe male dalle nostre parti. Ben trovati a questa nuova puntata di Rock Revolution in diretta su CRM Happy Radio, il programma dedicato al rock e agli artisti emergenti. Ogni settimana intervistiamo e vi facciamo conoscere quelle che sono le nuove realtà musicali da tutta l'Italia, nuove ma anche insomma affermate, perché come sapete anche interviste a artisti importanti, insomma diciamo così importanti tra virgolette, comunque di fama nazionale ed internazionale, che vengono a Rock Revolution per proporre e promuovere i loro prodotti musicali d'anteprima, diciamo così. Do il benvenuto a Simone Brancato. Buonasera Simone. Buonasera, buonasera a te Filippo, buonasera a tutti gli amici di Rock Revolution. Salutiamo anche la nostra redazione, Ida, anche lei pronta questa sera all'attacco per tenervi queste tre ore compagnia su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Ricordo sempre si vede perché chiaramente siamo in online, in streaming, anche in video, quindi potete seguire tutta la puntata come fosse in televisione, oltre ad gustare poi della performance dal vivo degli artisti che verranno qui in studio da noi, quindi ascoltare della buona musica dal vivo e vederla anche. Quindi il programma di questa sera sempre molto intenso, parleremo con Francesco Quartararo per notizie.it, palermo.notizie.it, per parlare di quelli che sono gli eventi più interessanti della prossima settimana. Poi ci metteremo in collegamento con Roma per conoscere i Lost Reflection, questa band molto forte che sta andando per la maggiore nel Lazio, e quindi conosceremo la loro musica. Ancora il Rock for You, i quattro successi rock in sequenza senza interruzioni, anche questa settimana quattro grandissimi successi da gustare tutto ad un fiato. Il Rock Revolution Live, lo spazio dedicato a due canzoni di successo eseguite in live, quindi, e ancora l'intervista di questa settimana con la band in studio ai Rocky Band, o alla Rocky Band, che abbiamo già conosciuto, abbiamo avuto il piacere di incontrare quest'estate a Lido Polo durante i nostri live in spiaggia, e sono tornati adesso a trovarci in studio, e quindi siamo curiosi di ascoltare la loro musica in versione acustica, ma anche quella registrata in studio, perché abbiamo ritenuto insomma di volerveli far conoscere. Anche questa settimana tante belle notizie, tanto rock and roll che fa la base insomma del nostro programma, quindi iniziamo ufficialmente questa nuova puntata di Rock Revolution. Iniziamo con un grande successo dei Foo Fighters, questa band che ha riscosso un grandissimo successo, vuoi perché anche il batterista era insomma una persona un po' conosciuta, diciamo così, no? You buried deep. Happy Radio Rock Revolution, l'appuntamento rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sul big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. Questi erano i Rise Against con Help Is On The Way. Su CRMP Radio Rock Revolution appena iniziato. Diamo subito le coordinate per mettervi in collegamento con noi. Allora, dal nostro sito che ormai conoscete abbastanza bene, www.crmpradio.it. Il nostro numero per gli SMS, il 335 56 37 251, oppure semplicemente online su Facebook cercando CRMP Radio Rock Revolution Redazione. Anzi, a tal proposito, volevo salutare già un po' di amici che ci tengono compagnia e stanno chattando con noi, con la nostra redazione. Ad esempio Carlo, che ricordavamo assieme off air le belle serate dell'Imperium Matena, questo locale in provincia di Palermo molto bello, chissà se è ancora aperto, non lo so. Vabbè, poi saluteremo anche tutti quanti altri. Stasera vi prometto, poco a poco vi saluterò tutti quanti. Forse non do la cosa al 100%, però spero di farlo. Allora, ci mettiamo subito in collegamento con Palermo per parlare con Francesco Quartararo, il nostro corrispondente, e conoscere quelli che sono gli eventi più interessanti della settimana e tanto altro. Francesco, buonasera. Buonasera Filippo. Ben trovato. Allora, hai visto, la neve, si è andato via dalla neve qualche settimana fa, è prevista per i prossimi giorni un po' di neve anche a basse quote, quindi se la montagna non va da Maometto La neve va da Maometto? No, non era così. Beh, sarebbe quanto particolare poter vedere la spiaggia di Cefalù o il centro di Palermo tutto bianco con la neve. È una cosa molto particolare. Chissà che la profezia dei Maya non si stia avverando con questi cambiamenti climatici così repentini. Ma insomma, direi che anche la spiaggia di Cefalù, quella di Mondello, imbiancata dalla neve, sono uno spettacolo a suo modo, insomma, particolare. Assolutamente. Non credo ci arriveremo, perché comunque le temperature più basse a Palermo le raggiungeremo tra lunedì e martedì con meno 1 gradi percepiti. Aia. Ma ci dovremmo salvare dalla neve, perché la temperatura percepita comunque sarà sempre inferiore di quella reale. E questi sono i giorni della merla, no? I giorni che fanno il passaggio, sì, da una stagione ad un'altra, cosa che purtroppo ultimamente non è molto frequente, che capita spesso di passare dalla primavera all'estate senza neanche rendersene conto. Vabbè, è anche vero che a pronunciare giorni di merla in questo momento in radio si cade facilmente in equivoco, e credo che molti ascoltatori saranno d'accordo nel dire che è altro che merla. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro in questi giorni, almeno nella parte della Sicilia occidentale, non so gli amici ascoltatori della zona di Enna, di Caltanissetta, anzi, se ci volete far sapere in che condizioni siete, perché so che l'autostrada Palermo-Catania è obbligatorio portare in macchina le catene, quindi so che probabilmente, insomma, saranno anche loro un po' con qualche disagio, quindi facciamo tanto in bocca al lupo per affrontare nel miglior modo possibile e assolutamente sicuro quello che sarà il prossimo futuro. Anche perché con le catene, sai meglio di me, le catene richiamano il metal, l'hard rock, e io arrivo proprio qui a bomba. Bene, bene. Infatti mi trovo a 10 metri dal vintage, dove mi andrò a seguire questa bellissima serata che è denominata indie rock, ma di indie molto poco. Perché io qua leggo dei Anthem 37, dei 30 Hz, dei Democide e dei Merchants, che sono tutti gruppi che vanno dal metalcore al post-rock, hardcore metal, insomma una serata tosta. Bene, bene, insomma ci vuole ogni tanto. Tra l'altro gli Anthem credo abbiano partecipato a Monreale Rock Fest qualche annetto fa, è una band molto promettente, quindi se ti capita, insomma, di poter attaccare il bottone, ci farebbe piacere averli in studio. Ti incarico di questa missione impossibile. Direttamente questa sera. Vediamo. Poi vabbè, c'è un'altra bellissima serata stasera che si festeggia la Famiglia del Sud, che è uno dei pochi gruppi reggae siciliani noti anche nel resto d'Italia. Mm-hmm. Ho la fortuna di conoscere anche il cantante, che è stato mio compagno di classe per qualche annetto, è una persona fantastica. Ah beh, noi siamo fortunati, come noi come siciliani siamo fortunati, non so se tu lo sai, perché abbiamo comunque un esponente molto importante nel reggae internazionale, parlo di Alborosi, che credo sia di Marsala o di Trapani, adesso non ricordo esattamente, però è aiutato tantissimo da Caparezza in quest'ultimo periodo. Esatto, ha fatto una collaborazione con Caparezza, o Caparezza l'ha fatta con lui per meglio, però comunque è un artista tra l'altro molto affascinante, che dovremmo affrontare prima o poi, anche se il reggae è leggermente borderline rispetto al rock che noi trattiamo. Vabbè, legalize forever. Assolutamente, assolutamente. Mentre domani invece segnalo un bel po' di cose. Intanto vabbè, mi trovate al Barcollo a dirigere la terza fase del... Ecco, ma com'è andata? Siamo curiosi di sapere com'è andata. Beh, com'è andata? Il meccanismo del contest purtroppo è molto crudele, si premiano i gruppi che portano più persone e non forse il merito e la bravura musicale. Diciamo, per rimanere sul vago e non offendere nessuno, ci sono dei gruppi che comunque avrebbero bisogno di molta palestra che insomma sono stati premiati dal pubblico. Fortunatamente comunque in finale chi arriverà in finale dovrà anche passare dal giudizio della giuria tecnica, ma il contest insomma ha questo meccanismo, purtroppo o per fortuna. Da un lato serve a chi organizza e i gestori dei locali per sopravvivere, dall'altro insomma è pur sempre una gara. Infatti, poi dà comunque la possibilità alle band di farsi ascoltare, farsi vedere, di farsi anche conoscere. Esatto. Domani sera infatti troveremo sul palco del Barcollo gli Eventide, gli MK Ultra, che già stanno partecipando anche ad altri contest, i Sexual Thing e gli Gyron. Sento dei nomi nuovi questa sera. Sì, qualcuno di questi te lo porterò magari prossimamente. Ben volentieri. Sempre domani segnalo anche una serata molto particolare al Pinkish, con una sorta di serata tutta incentrata sui Get Back, mm-hmm. È un gruppo che suona qui da noi a Palermo. La segnalo anche perché, diciamocelo francamente, è una serata a buon mercato in cui c'è veramente tanta roba. Infatti, oltre ai Get Back, poi ci sarà la possibilità dopo di giocare con Mr. Quiz e fare tante altre cose. Anche i menù, devo dire, sono a buon prezzo. Bene, senti, ma tutte queste informazioni saranno reperibili sul tuo blog? Su Rock Revolution. Su Rock Revolution, perfetto. Quindi sì. Sul nostro profilo andate a informarvi. Io noto spesso, insomma, i tuoi post sempre molto interessanti che condivido spesso. E quindi, se avete il piacere e non sapete cosa fare, insomma, visitate il nostro profilo. Francesco lascia sempre il segno di sé. Segnalo anche altre due cosucce, niente male. Sì. Una riguarda una sorta di serata pop shock indie. In realtà il nome è molto fuorviante. Mm-hmm. Si entra al blow up, scusami, e qualsiasi musica che abbia una chitarra viene suonata fino allo stremo. Hai capito. E in più segnalo, questo è un main event che ci porteremo la prossima settimana, ma è giusto iniziarlo a segnalare sin d'ora, di Acquario Palude, che è un famigerato gruppo cover Ligabue, che conosciamo bene, Sergio, esatto. Giulla, salutiamo Sergio, esatto, Mirko, esatto, tutti i ragazzi. Esatto. Questa sera suonano al Ciros, ma venerdì si preparano a una grande festa a contributo Ligabue, capitanata, pensa un po', da Fede Poggipollini, che suonerà con loro venerdì prossimo. Ex chitarrista dei Litfiba, anche di Ligabue. Eh sì, è un po' uno dei nostri chitarrieri, forse uno dei pochi italiani chitarrieri. Assolutamente. Poi vabbè, ho dovuto scartare un sacco di cose perché sono veramente troppi gruppi, Zero Lab Station, Not For Sale, Wet Soul, insomma, ho dovuto fare no, ma è bella questa cosa perché mi sono reso conto del fatto che già dalla scorsa settimana c'è un bel movimento di musica dal vivo a Palermo e questa cosa mi rallegra. Sì, qualcosa si muove, insomma, nonostante i problemi siano sempre gli stessi, c'è forse un po' più di coraggio da parte di chi organizza le serate e si sente tanta musica in giro. Bene, bene, sono contento. Va bene, Francesco, noi ti ringraziamo come sempre per i tuoi preziosi consigli e ti auguriamo una buona serata e ci aggiorneremo sia sul nostro profilo Facebook che su palermo.notizie.it per conoscere tutti gli eventi più interessanti di Palermo, ma non solo. Va bene. Grazie Francesco, un abbraccio e buona serata. Ok, ciao Francesco. Bene, ci siamo organizzati il weekend, ragazzi, in questo modo, con Francesco per fortuna ogni settimana ci tiene al corrente, salvo imprevisti meteorologici, sappiamo cosa fare. Nuova canzone per gli Stain, un sound molto forte, molto potente, con queste chitarre hardcore quasi, si intitola Not Again. Arrivano già i saluti per i Lost Reflection, conosceremo tra un po', adesso gli Stain. diretta su CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're Arctic Monkeys all'interno di Rock Revolution su CRMP Radio. Questo era un album del 2007, Favorite Worst Nightmare, il peggior, il preferito peggior incubo, non so come tradurlo esattamente. Insomma, una canzone della band britannica Arctic Monkeys che è stata scelta tra l'altro come singolo estratto del loro secondo album, di cui vi ho già citato il titolo, rilasciata il 2 luglio in Giappone e il 9 in Europa. La canzone è arrivata alla posizione numero 5 della UK Single Chart, quindi un'ottima posizione per gli Arctic Monkeys, che sono una band insomma storica, ma sono tornati all'attacco e questa cosa ci fa molto piacere. Prossima canzone, un altro grandissimo successo della storia della musica internazionale. Parliamo di Metallica, parliamo di 1997, l'album Reload, una canzone composta da James Hetfield e Lars Ulrich, grandissimo batterista e grandissimo chitarrista e cantante, dobbiamo dirlo. Il brano parla di una celebrità del passato caduta nell'oblio che vuole riacquistare fama, ma ha cominciato ad impazzire dopo il suo declino. Si dice che vi siano dei riferimenti impliciti ai film Viale del Tramonto del 56 e Gli Sposati con Marilyn Monroe, grandissima, grandissimo personaggio. Al brano vi ha collaborato tra l'altro anche l'attrice e cantante britannica Marianne Faithfull. Nei concerti la band invita i fan a cantare le parti di Marianne, e quindi siamo ansiosi di ascoltare in Metallica con The Memory Remains. Star denies the rain. See the nowhere crowd. rock è la tua passione, non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. You need cool air. Grandissimi Cream con Sunshine of Your Love su CRMP Radio all'interno di Rock Revolution. Siamo adesso pronti a metterci in collegamento con la capitale d'Italia, la bellissima Roma, in questi giorni bianca come non mai. E dovremmo essere al telefono con Fabrizio dei Lost Reflection. Pronto? Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Fabrizio, giusto? Fabrizio. Oh, buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Grazie. Allora, come ve la passate lì a Roma con questa temperatura? Niente male. Diciamo che la città è un po' bloccata, però andiamo avanti. Si va avanti, comunque vabbè, i servizi base sono garantiti. I servizi base sono garantiti, sì, non tutti, nel senso che le strade e le scuole sono chiuse, insomma, una situazione particolare. Però particolare vedere Roma innevata, no? Sì, sì, sì. Beh. Noi siamo un po' più sul mare. Ah, di dove siete? Dove siete? Perché ha colpito di meno, siamo a Ostia. Ah, Ostia, bellissima Ostia, ecco, no, come non capivo, ecco, vicino al mare, ho detto, com'è vicino al mare? E quindi siete in provincia di Roma, bellissima Ostia. Sì. Allora, iniziamo presentando i Lost Reflection, se vuoi parlarci brevemente della band, di come nasce l'idea di questo progetto musicale, da quanti anni suonate assieme? Ma questa formazione è stabile da 3-4 anni, questo è il mio progetto che risale... Diciamo, io ho sempre avuto una band, e quindi è una cosa più che decennale. Questo tipo di formazione, come ti dicevo, la più recente, la svolta del gruppo è dal 2000 in poi, quando io sono passato dal basso a chitarra e voce. Sì. Ci siamo sempre orientati su un hard rock di tipo americano, old style, vista anche il background molto 80s, diciamo, del gruppo. Quest'anno è uscito il primo album per SG Records, e finalmente, dopo anni di anche di gavetta, giustamente. Sì, le coordinate musicali, hard rock con contaminazioni metal. Senti, io ho letto qualche informazione un po' su internet, ho letto di un tributo ai Crimson Glory. Allora, quella bio è stata un po' fraintesa. Il nome Lost Reflection è quello il tributo, diciamo, perché io sono molto legato a quella band, e quindi quando ho formato il gruppo la canzone che più mi ha colpito dei Glory era quella, e allora ho voluto chiamare così il gruppo, però non siamo mai stati una tribute band. Tra l'altro so che avete avuto anche diversi cambi line up, no? Questa cosa avviene spesso fra le band, fino alla line up attuale. Ci sono state delle evoluzioni particolari dal 96, insomma, da quando vi siete aggregati fino ad oggi? Come ti dicevo prima, io dal 2000 prima suonavo il basso, poi sono passato alla chitarra e alla voce, e adesso la formazione stabile vede il batterista Max Defender, Piero Sorrenti alla chitarra, e al basso si sono alternati Marco Bomboi e il nostro attuale bassista, che è Simone Appo. Senti, scusa se ti interrompo, stavo leggendo una notizia molto interessante. Interessante perché sappiamo, insomma, che in America, vuoi non vuoi, ci sono dei grandissimi professionisti del sound engineer, comunque studi di registrazione molto professionali. So che avete registrato in Florida il vostro ultimo disco. Ci vuoi parlare di questa esperienza? Allora, in Florida sono stato io, ho collaborato con Ben Jackson, il chitarrista appunto dei Glory. È stata una collaborazione nel 2005. Lui cercava un bassista per la sua band e io lì personalmente ho registrato qualcosa con lui. Abbiamo fatto delle cose acustiche, delle b-side per il disco che era in uscita a quel tempo. L'album l'ho chiamato io Florida dopo, quando sono tornato qui in Italia ho rimesso in piedi la band, mi sembrava il titolo più adatto, diciamo, dopo quell'esperienza. Una bella esperienza comunque, no? C'è qualcosa che rimpiangi della Florida? Sì, il visto americano che dura solo 3 mesi, che rimpiango di più, diciamo. Beh, ti credo. Senti, Fabrizio, arrivano dei messaggi per voi. C'è Antonio che dice un enorme a Fabrizio dei Lost Reflection. Sarà un enorme saluto, penso. Non ha concluso forse la frase, quindi Antonio ti saluta. Sono arrivati diversi messaggi perché vogliono sapere, insomma, dove è possibile ascoltare la musica dei Lost Reflection su internet. Abbiamo il nostro sito lostreflection.tribute.com, oppure su MySpace, come tutti i gruppi, .com/lostreflectionband. Benissimo, senti Fabrizio, siamo curiosi di ascoltare la vostra musica. Questa sera ascolteremo Bad Love. Ci vuoi dare qualche informazione in più riguardo questo brano? A questo brano è l'ipotetico singolo. Te lo faccio spiegare dal nostro chitarrista. Ah, che... non sei solo, quindi. No, infatti. bene, sentiamo che ne pensa di Bad Love, i tuoi colleghi. Con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Ciao. Buon pomeriggio, buonanotte. Parliamo con Piero. Piero, buonasera, sì, benvenuto a Rock Revolution anche tu. Allora, Piero, raccontaci un po' di Bad Love. Beh, Bad Love, diciamo che è un po' il classico brano americano, insomma, come come dire, diciamo, insomma, un po' con lo stile del motociclista, insomma, innamorato della fast food, insomma, così. Beh, semplicemente, allora siamo, c'è un po' di LA Woman? Come? C'è un po' di LA Woman dei Doors? Beh, sì, effettivamente qualcosa che potrebbe essere, insomma. Poi mi trovi un po' impreparato sul punto di vista dei Doors e cose del genere. Vabbè, stiamo ascoltando musica un po' più estrema di quella. Lasceremo giudicare i nostri ascoltatori se ho detto una fregnaccia, come si dice dalle vostre parti, oppure c'è un fondo di verità. Piero, salutami Fabrizio e tutti quanti gli altri ragazzi della band. Noi adesso andiamo ad ascoltare la vostra canzone. Vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il vostro futuro musicale. E magari ci incontriamo presto in Sicilia, chi può dirlo, no? Va benissimo. Grazie, perfetto. Grazie, buona serata. Di venire lì. Bene, okay. Bene, vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie. Da Ostia, Lost Reflection. Cercateli su Google, su YouTube, andate ad ascoltare le loro canzoni. La musica nuova, la musica emergente su CRMP Radio all'interno di Rock Revolution, anche questo venerdì. In replica sabato pomeriggio. Ascoltiamo quindi questa canzone, si intitola Bad Love. Interagite con noi al 335 56 37 251 oppure su Facebook cercando semplicemente CRMP Radio o Rock Revolution Redazione. Siamo online, potete anche chattare con noi. just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? E dalla Florida passiamo al Canada, non so, dalla California, chissà perché. No, effettivamente quest'oggi sono state delle temperature molto californiane, almeno nella Sicilia occidentale si sono sfiorati 19 gradi, pensate un po' la differenza fra la Sicilia e il Lazio. Beh. Però è previsto il freddo anche qui, sappiate, preparate cappellini e guanti e sciarpe, perché dalla prossima settimana ci sarà molto freddo. Salutiamo anche Rossella su internet, ci manda un messaggio: sono una delle fan più sfegatate dei Lost Reflection, ragazzi vi amiamo. Da Cilla e Rox, molto rock Rox. Abbiamo salutato anche voi, bella ostia. Ah, i Beatles, questa è la famosa Twist and Shout. Ho scoperto che oggi ci sono tanti amici di Rock Revolution che fanno il compleanno, quindi un saluto e un augurio a tutti quanti gli amici di Rock Revolution che oggi compiono gli anni. Beh, è venuta così, sapevo, so che insomma che è carino fare gli auguri via. Dovevamo mettere Happy Birthday dei Beatles anziché Twist and Shout, però la prossima volta ci adopereremo per tempo. Volevo farvi vedere la cover della band che questa sera sarà ospite di Rock Revolution, The Rocky Band. Questo è il loro nuovo lavoro, fra poco ascolteremo la loro musica e potrete interagire come sempre con loro via SMS al 335 56 37 251 oppure dal nostro profilo Facebook CRMP Radio o Rock Revolution Redazione. Dai Beatles con Twins and Shouts passiamo ai Green Day con Blast of the American Girls. Extinction. She is one of a kind. Una bella canzone d'amore da parte di Billy Joel verso la moglie. Questa era Last of the American Girls, l'ultima delle ragazze americane. Molto rock, eh? Moglie di Billy Joel è molto rock. E adesso arriva il Rock for You. Ogni venerdì alle 21, in diretta su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. For You, 4 successi rock in sequenza, senza interruzioni. We'll be right back. 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Questo era il Rock for You di questa settimana, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni, e anche quest'oggi insomma delle canzoni grandissime, dalle Zeppelin e Queen, insomma non ci siamo fatti mancare nulla. Iniziamo l'intervista di questa settimana. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Pa-pa-para-para-pa-para. Fa un po' di circo questa sigla, effettivamente, da pagliaccio. Allora, benvenuti ai Rocky Band, ragazzi, buonasera. Buonasera. Ricordate quello che vi ho detto, ragazzi? Allora, intanto dei messaggi. Ciao. Bravi. Sono arrivati un bel po' di messaggi su internet per voi mentre aspettavamo di andare in diretta. Allora, Marina dice: voglio i Rocky, sono mitici. Poi c'era ancora Ada, ancora molto devo aspettare per i Rocky. No, Ada, sono pronti qui per te, voglio sentire i loro brani. Ecco, adesso li ascolteremo. Tra l'altro, devi sapere, cara amica Ada, che ci stai seguendo, che suoneranno anche dal vivo una bella canzone, un tormentone della prossima estate 2012. Che ne pensate? Ci proviamo. Speriamo. Esatto. Allora, abbiamo quindi con noi questa sera Rocky Band dalla bella Palermo. Vi ricordo subito il loro MySpace, che è un po' complesso, a dire la verità, no? Perché potete anche andare a giocarvi all'otto questi quindi vabbè, allora myspace.com 56 72 33 74 9, cioè avete scelto tombola dall'altra parte, la regia mi hanno detto che hanno fatto avete scelto un indirizzo MySpace molto semplice alla portata di tutti a ricordare. Complimenti. Assolutamente. No, beh, dobbiamo finanziarci, quindi se doveste vincere il 20% è nostro, ovviamente. Bene, no, beh, comunque cercando su YouTube è molto più semplice, cercate Rocky Band, ma anche su Google poi semplicemente sicuramente si arriverà al vostro MySpace, dove immagino sia possibile ascoltare della musica. Più sul canale YouTube. Più su YouTube. Sì. Bene, bene. Allora, vado a presentare la band. Abbiamo quindi Paolo Rocky. La cosa bella è che tutti si chiamano di cognome Rocky. Paolo alla Terranova, in realtà, alla chitarra e alla voce. Alessio Scarpisi, basso e voce. L'ho detto con l'accento giusto? Sì, esatto. Perfetto. Lo sai, c'ho un po' l'ansia che sbaglio sempre. E poi Alessandro Tarantino, batteria e voce. E questa sera Percussion Live. No? Stasera sì, un bel ci provo. Djembe, si chiama djembe oppure... Io che ne so, io l'ho comprato in basta. Diciamo che l'abbiamo provato in macchina da Palermo fino a qua, sto pezzo. Perfetto. Vabbè, 45 minuti, mezz'oretta, ma più... Non diamo che... garanzie, ecco. Bene. Allora, se volete interagire con Rocky Band, inviate i vostri sms al 335 56 37 251, numero che trovate anche sul nostro sito internet rockrevolution.it, oppure potete chattare con noi via Facebook o inviare i vostri messaggi da crmpiradio.it. C'è un modulo apposito a compilare online per inviare i vostri saluti, i vostri messaggi, quello che vi pare. Abbiamo già avuto il piacere di conoscere e intervistarvi a luglio, esattamente nella bellissima spiaggia di Cefalù, con una temperatura decisamente diversa. Stavamo discutendo molto, proprio molto di questo, diverso. No? Però presentatevi al pubblico di Rock Revolution che non ha avuto la fortuna e il piacere di ascoltarvi e di conoscervi già quest'estate. Noi siamo i Rocchi, una band emergente palermitana. Piacere. Piacere. Ciao fan. Ciao. Ciao. Ciao ragazze. Ciao. Bene, sentite, sappiamo che avete girato un bel po', come avete trascorso la vostra estate a parte queste belle serate a Cefalù? Ci volete parlare di qualche esperienza in particolare? Quest'estate noi abbiamo visto molti posti bellissimi facendo questo, diciamo, queste serate contest. Cefalù, siamo stati anche a Otranto. Ah. Torino. Siamo fatti un bel po' di vacanze. Bene, bene, bene. Come avete, cosa avete recepito, insomma, nell'esibirvi di fronte a un altro pubblico, non soltanto siciliano? Una figata. Bello, vero? Bene, la sensazione è, devo dire, che non è male. Certo, poi l'alcol... Siamo in fascia protetta. È venerdì sera, ragazzi. No, peraltro sta parlando l'unico dei Rocchi che non beve. Io bevo in poche occasioni. Poche ma buone, dici. No, colgo l'occasione per invitare tutti gli ascoltatori. Chiaramente, se bevete, non guidate. No, no, è sbagliato. È sbagliato. Ecco, è importante. Sentite, cos'è successo da luglio ad oggi alla Rocky Band? Sappiamo che siete venuti qui con questo bel disco di cui adesso parleremo, un disco con una cover molto bella dove è raffigurato un cuore. Ci dovete spiegare poi perché sto cuore è una scritta molto bella, Rocky Band, che vedo tantissimo come adesivo sulla mia macchina, devo dire la verità, perché è molto rock. Il cuore praticamente è uno dei simboli dei nostri live. Noi quando facciamo un live facciamo qualcosa di particolare. Diciamo, ci mettete il cuore e anche il sangue, sì. Soprattutto il sangue, soprattutto. E anche il sangue, bene. Senti, io direi, siccome abbiamo un po' di canzoni, prima di sentirvi suonare dal vivo, abbiamo un po' di canzoni che ci avete portato da questo bellissimo disco che avete portato, che avete tra l'altro fatto uscire quando? È uscito 4 mesi fa, 4 mesetti fa, quindi abbastanza recente. Allora, ascoltiamo proprio dal il primo? Il primo, sì, è il primo pezzo dell'album. Primo album per i Rocky Band? Sì, il primo. Bene, bene, siamo contenti di ascoltarli, quindi Rocky Band Love Story su CRM all'interno di Rock Revolution, la musica emergente, la musica nuova da Palermo questa sera. Il grande rock targato Rock Revolution. Ci potete seguire anche in webcam se volete, rockrevolution.it. Credono più, sono sicuro. ai ai, ai ai ai ai, mi amo. Olè! Effettivamente, insomma, parlavamo con i ragazzi del fatto che la loro musicalità viaggia tra tanti generi musicali, dal country al metal al punk, no? Sì, è esattamente un frullato, come un dicevamo prima. Multivitaminico. Multivitaminico. Allora, abbiamo questa sera, questo pomeriggio con noi i Rocky Band da Palermo. E stiamo ascoltando loro musica. Se avete piacere, interagite con loro via SMS al 335 56 37 251. Ragazzi, stasera faremo anche una telefonata sorpresa per voi. Vi faremo parlare con una persona per sapere, insomma, anche dal punto di vista esterno ai Rocky, qual è il livello di gradimento della vostra musica. Trattateci bene, eh? Assolutamente, assolutamente. Sentite, parlando appunto di questo nuovo album uscito il 5 novembre, vogliamo sapere tutto, come sono andate le registrazioni, come avete vissuto questa esperienza in studio, se è stata la prima, è stato più divertente il periodo di registrazione o il momento in cui il lavoro si è concluso e quindi avevate, insomma, questo bel CD in mano, contenti, soddisfatti? Diciamo che sono state bestemmie sia nel primo caso e anche nel secondo caso, sia per registrarlo che anche dopo per farlo uscire. Comunque, perché dici? Perché è un po' stressante tutti i giorni sempre in sala registrazione, poi con loro. Non dobbiamo parlare di alcol, vero? Alcol no, è sbagliato. No, vabbè, comunque un bel passatempo, la musica è sempre un passatempo, diciamo così, interessante. Alla fine ci siamo divertiti, è stato stressante ma ci siamo divertiti. Sì. Ci siete divertiti. Quanto tempo è impegnato la preparazione dell'album? Circa un mese e qualche giorno. Ah, quindi insomma, una quarantina di giorni, sì. Stato abbastanza fresco come lavoro, breve, come diciamo, avevate delle canzoni già pronte prima, quindi siete andati in studio, avete registrato e basta, no? Sì, già qualcuna l'avevamo come demo, l'abbiamo rifatta, mentre qualcuna invece è andata all'Adam direttamente. Bene, sentite, abbiamo visto e letto su internet che avete delle collaborazioni anche con Le Deliria, che è una band che è stata ospite di Rock Revolution. Come mai questa collaborazione, come è nata, di che è stata l'idea? Allora, avevamo deciso di riarrangiare un pezzo che ci piaceva tanto, che è appunto Gianna, che penso che stasera ascolteremo proprio dopo. L'abbiamo mandata, no? Proprio fra pochissimo. Esatto. E tra i ci serviva una voce femminile, cioè Gianna necessitava di questo, e quindi a Palermo conoscevamo loro, l'abbiamo viste in vari locali, e sono delle ragazze che sono anche loro un po' rocchi nell'anima, che quindi salutiamo immensamente. Assolutamente, ci uniamo al saluto. Salutiamo anche noi le Deliria. Allora andiamo ad ascoltare subito questa canzone, è una cover. Esattamente, Rino Gaetano. Rino Gaetano, Gianna, interpretata dai Rocky Band. Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita, fanculo la vita, la gente si sveste. Un mondo, un mondo diverso, ma fatto di sesso, di vibra a pedra. Gianna, Gianna, Gianna non cercava il suo big maglione. Gianna proteggeva il suo salario dall'inflazione. Gianna, Gianna, Gianna non credeva a canzoni o UFO. Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo. Ma la notte la festa è finita, fanculo la vita, la gente si un mondo, un mondo diverso, ma fatto di sesso, di vibra a pedra. Ma dove vai? Vieni qui, qui da noi, vieni a farti i fatti tuoi, vieni qua con chi ce l'hai. Vieni su dai Rocky Band, ma chi sei, ma che vuoi? Vieni a farti i fatti tuoi, vieni qua con chi ce l'ha. Vieni su dai Rocky Band. Avete anche personalizzato la canzone, stavano ascoltando, no? Davvero molto carina. Arrivano degli sms per voi. Sono meravigliosi questi Rocky e spero di vederli a Sanremo questa sera. Facciamo tanti. No, grazie. Perché non vi andrebbe di suonare a Sanremo? È comunque una vetrina importante. Ovviamente sì, però tutti loro sono meglio per loro che non ci vanno a suonare. Abbiamo ancora quasi tutti la condizionale da giocarci, va bene, però il palco di Sanremo mi sa che ce la toglierebbe agli altri restanti, no? Ho capito. Sentite, mi chiedono gli amici su internet, a proposito di CD, abbiamo parlato di questo nuovo lavoro, dove è possibile comprare il CD, se è in distribuzione, se si può scaricare da internet. Stiamo pensando per la distribuzione, in realtà in questo momento è andata giù con le serate. E ci suggeriscono anche nel cofano della macchina del nostro chitarrista, comunque ne potete trovare un po', ecco. Bene, quindi comunque quando fate il live generalmente portate qualche copia, quindi se qualcuno vuole sostenere Rocky Band, ben venga, no? Tra l'altro parlavamo anche del fatto che prossimamente parteciperete anche a diversi contest a Palermo, quindi vi aspettano delle serate dal vivo. Esattamente, la prossima è l'11 febbraio al Mescal. Siamo lì, abbiamo passato le selezioni, non sappiamo ancora come, veramente. ci trovate lì se volete. Sentite, qual è il brano alla quale vi sentite particolarmente legati, sia da un punto di vista tecnico che emozionale? Allora, e se ce n'è qualcuno in questo nuovo lavoro? Sicuramente voglio stare qui. Voglio stare qui perché, vabbè, tolto Lasciate Stare Silvio, che è il brano con cui abbiamo fatto il primo video. Ha no? portato bene, ragazzi. Esattamente. Non possiamo più suonarla, però riprendiamolo, per favore, perché adesso non ha più senso. Vabbè, in cui praticamente eravamo senza il batterista, cioè, quindi era tutto campionato. Voglio stare qui è stato il primo brano che abbiamo, in cui appunto Alessandro è entrato nel lineup, ed è quello per cui abbiamo fatto l'ultimo video. Abbiamo collaborato di nuovo con le stesse persone con cui abbiamo fatto il primo. Ringraziamo Sigfrido Giammone, il regista, Luca Mannino, la collaborazione e comunque la disponibilità dei cantieri culturali della Zisa per averci dato la possibilità di girarlo lì. Bene, sentite, ma qual è stata la vostra strategia creativa? Cioè, come nasce un brano dei Rocchi? E chi è che lancia generalmente l'idea, la melodia iniziale, il riff? Allora, il tema è ricorrente, non dobbiamo trattarlo stasera, però abbiamo detto di non parlare di alcol, no? Però mi sa che il tema è sempre quello lì, cioè si scherza, si sta un po' tutti insieme, esce lì, ecco. Momenti di ordinaria euforia. Esattamente. Bene, allora, parlando di euforia, io, visto che insomma mi sembrate belli carichi per affrontare questa versione dal vivo, di cosa ascoltiamo? Voglio stare qui. Quindi prendete insomma i vostri strumenti, fate pure. Nel frattempo invito i nostri ascoltatori ad interagire con Rock Revolution tramite Facebook, cercando CRMP Radio oppure Rock Revolution Redazione, oppure con gli SMS al 335 56 37 251. Anche se l'ho detto in modo molto veloce, comunque lo trovate sul nostro sito internet, quindi è abbastanza semplice. Allora, siete pronti? Sì. Ascoltiamo quindi Voglio stare qui, Rocky Band a Palermo, live unplugged per Rock Revolution. Buon ascolto. Voglio stare qui, voglio restare qui. Yeah, yeah, yeah. Voglio stare qui, voglio restare qui. Mi insegnano a campare, poi male, 20 anni per pensare. Voglio stare qui, voglio restare qui. Yeah, yeah, yeah. Voglio stare qui, voglio restare qui. Mi sono ambientato, ho fatto a fatica, non scappa più il sapone. Voglio stare qui, voglio restare qui. Yeah, yeah, yeah. Voglio stare qui, voglio restare qui. Mi son fatto degli amici, tutti bravi ragazzi. Sbagliamo tutti prima o poi. Voglio stare qui, voglio restare qui. Yeah, yeah, yeah. Voglio stare qui, voglio restare qui. Si dorme tutto il giorno, a casa era un inferno, c'ho il giornale di porno. Voglio stare qui, voglio restare qui. Yeah, yeah, yeah. Voglio stare qui, voglio stare qui. Voglio stare qui. Dalle grate guardo il cielo. So che fuori ci sei tu. Voglio stare qui. Voglio restare qui. Voglio stare qui. Voglio restare qui. Voglio stare qui. Voglio restare qui. Voglio stare qui. Voglio stare qui. Voglio stare qui. Voglio stare qui. Voglio stare qui. Voglio stare qui, voglio stare qui, voglio stare qui, voglio stare qui, voglio stare qui. Ragazzi, dal vivo Rocky Band, questa sera Rock Revolution complimenti, è una bellissima canzone. Grazie, però mi dispiace, grazie, ma qui non potete rimanere, non c'è un sacco di cose da fare. Mi dispiace, poi insomma ascoltando so che comunque potete trovare delle alternative molto valide. Allora, Rocky Band questa sera, Rock Revolution. Salutiamo gli amici che ci seguiranno in replica il sabato pomeriggio su CRMP Radio. Quest'oggi musica emergente, come ogni venerdì e sabato pomeriggio su CRMP Radio. Quest'oggi questa band da Palermo, abbiamo ascoltato già delle canzoni tratte dal loro nuovo lavoro che si titola Rocky Band. Rocky semplicemente. Bene, e quindi vi abbiamo dato le coordinate per cercare la loro musica su YouTube, cercando semplicemente Rocky Band, potrete farvi un'idea insomma di quella della loro musica, e poi prossimamente insomma li vedrete dal vivo a Palermo e potrete eventualmente acquistare il loro CD per sostenere la buona musica, e questa è davvero buona musica, assolutamente. Arrivano degli altri messaggi in diretta per Rocky Band, andiamo subito a scoprire di cosa si tratta. Dice: ma sono davvero bravi, sembrano una bella associazione a delinquere di stampo alcolistico. Mamma Rocky, i Rocky non bevono. Mamma, basta. Mamma, vai a letto, per favore. Mamma, basta. È tardi. Mamma, basta. Bene, bene. No, è importante anche che ci sia il supporto degli amici, dei familiari. A tal proposito, so che siamo pronti per metterci in collegamento con una vostra fan. Pronto? Pronto. Oh, buonasera, come ti chiami? Sono Giorgia. Giorgia, buonasera, benvenuta a Rock Revolution. Ciao Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao ragazzi. Allora Giorgia, senti, sappiamo che ascolti, segui Rocky Band, volevamo chiederti insomma un'opinione riguardo alla loro musica, al loro progetto musicale. Lei dobbiamo allora minacciarla. Sono una grandissima fan di Rocky Band. Vabbè, di seguo quando è nato il gruppo praticamente. Sono molto bravi, mi piacciono molto per i loro testi satirici e i loro cover. Poi una delle cose più belle dei Rocky è che oltre ad essere un gruppo molto affiatato, a parte con l'alcol, sono realmente... Questa è una cosa ricorrente. No, ragazzi, noi abbiamo finito. Sono un'associazione a delinquere di stampo fraterno. Bene, bene. Senti, ma ci vuoi raccontare insomma qualche occasione particolare, Giorgia, qualche evento particolare che è successo a Rocky Band in una delle serate? Qualcosa di particolare, devo dire. Durante i loro spettacoli, loro sono particolari, non c'è una cosa, sono loro. Ah, ecco, sono proprio loro. Ma dimmi, c'è una canzone in particolare che ti piace? Sì, in realtà le due mie canzoni loro preferite sono già passate, nonché Gianna e Love Story. Ah, quindi ti abbiamo fatta contenta con quell'occasione. Senti, siccome hai possibilità di parlare direttamente con loro, vuoi la salutarli? La telefonata tanto la pagano loro. Vuoi salutarli? Vuoi dirgli qualcosa? Sì, ragazzi, ovviamente qui da Alessandro, quindi divertitevi stasera. Quando mai, quando mai. Bene, bene. Io mi aspettavo qualche parolaccia, qualche manda da quel paese. No, non si dicono parolacce in radio, brava. I Rocky non bevono. Brava. Giorgia, noi ti ringraziamo per la tua testimonianza, ti auguriamo un buon ascolto e segui sempre questi ragazzi, grande sostegno, va bene? Ok. Ciao. Grazie, ciao, Giorgia. Brava. Ciao. Ciao, ragazzi. Bello, è bello sentire il sostegno degli amici, no? Quando si fa musica, anche quando si va in giro, portare gli amici con sé è sempre divertente, non pensate? Perché no, mi guardate così? Ovvio. Perché mi guardate? Non hai parlato, dilla perché? Qualcosa. È vero, guido sempre io, non è giusto. Sentite, parliamo, abbiamo parlato tanto di musica, parliamo di video. Il video proprio di Voglio Stare Qui. Parlateci un po' di questa esperienza. Per me, primo video, un'esperienza assolutamente unica, ci siamo divertiti, abbiamo fatti i pazzi, qualcuno ha bevuto, qualcuno non ha bevuto, diciamo che l'alcol è un tema ricorrente, ma ci siamo divertiti, che cosa dire? È sempre un primo vedersi là nello schermo e dire sono io. Quindi questa canzone mi piace, è stata la prima esperienza anche dal punto di vista del video per me, voi, per me il batterista. E invece perché? Voi avete già fatto qualche produzione? Effettivamente nell'altro video su Lasciate Stare Silvio avevamo fatto un casting e c'era una modella al posto del batterista, onestamente la rimpiangiamo tantissimo. È stata rimproverata tantissimo il fatto che io non ho delle pop è veramente. Infatti, se c'è qualche batterista che donna che ci sta ascoltando, annuncio. Mi sa che sei sul filo del rasoio tu, perché sì, è quasi fuori. Se non avesse la patente, non sarebbe più con noi, sostanzialmente. Sì, solo perché qui è un buon motivo, comunque, a me non per la sicurezza. Sentite, tantissime band preferiscono cantare in lingua inglese. Come mai avete deciso di comporre la vostra musica in italiano? Cioè, come mai? Siete italiani, sarebbe una risposta un po' anomala, no? Però allo stesso momento non è anomala, perché purtroppo altro, sappiamo la che... domanda nostra è: perché cantare in inglese? Perché qual è il motivo di camuffare i testi, non dare una logica? Io posso parlare di amore, amore, amore e poi non dare nulla nel testo inglese. Cioè, tanto non lo capisci a primo ascolto, ti devi andare a leggere il testo, capirlo bene. Invece noi vediamo subito il succo del discorso. In italiano, così tu lo puoi diretto capire, ascoltatore. Esattamente. Quasi in italiano. Quasi in italiano, per carità. Poi. Sentite, quali sono i temi ricorrenti nei vostri testi, oltre all'alcol? Che dai, no, eppure con l'alcol ancora non ce n'è. Il prossimo, vedi. I nostri temi ricorrenti forse sono l'amore. Sì, dai, l'amore. L'amore, dai. L'amore. Anche se è letto tra le righe, l'amore, però è l'amore. Specialmente l'ultimo pezzo che manderete in onda, Non ti voglio più, è un pezzo molto d'amore. Molto. Anche Love Story è molto d'amore. Leggo qualcosa di ironico fra le vostre parole. Esattamente. E quindi siamo curiosi di andarlo ad ascoltare. Prima, siccome questa poi è l'ultima canzone che ascolteremo, purtroppo anche noi vi vorremmo qui, dove vi potremo ascoltare prossimamente. Quindi abbiamo fatto questi contest, quest'estate avete già preso degli impegni, potremo vederci di nuovo a Cefalù, chi lo sa. Vabbè, sì, Cefalù, se ci invitate noi veniamo a volo. Bene, molto volentieri. Ragazzi, concludete l'intervista come vi pare. Baci, abbracci, quello che volete. Ciao mamma. Mua. Ciao mamma. Ciao. Ragazzi, un grosso in bocca al lupo per la vostra carriera musicale, per il vostro percorso, il vostro progetto, e speriamo di vederci nuovamente quest'estate. Va bene? Grazie. Ci vediamo. Grazie, mi raccomando. Grazie tanto a voi ogni volta. Non bevete troppo questa sera. Va bene. Tanto ormai è finita. Oh, ragazzi, solo una cosa, il bar più vicino dov'è qua? Solo una cosa. Non bevete prima di guidare. Questo lo dico io che sono l'autista. Bene. Anche perché è un bel penso messaggio. Che tutte le volanti ci stanno ascoltando, pensa. Ormai stasera va giù così. Salutiamo tutte le forze dell'ordine, insomma, che si hanno da fare per rendere la nostra vita più sicura. I Rocky Band con Non ti voglio più a CRMP Radio all'interno del Rock Revolution. L'ultima canzone la ascoltiamo questa sera, poi andate a cercarli su YouTube per ascoltarli meglio e conoscerli ancora di più. Non ti voglio più, non ti voglio più, non ti voglio più. What's gonna be my girl? Quante sere mi hai fatto aspettare, perché ti dovevi preparare, ore e ore in macchina a pregare, una caviglia ti dovevi slogare, ma poi alla fine la vedevo arrivare, tutta incazzata. Wow, wow, sale in macchina senza salutare, serate del cazzo. Non ti voglio più. Niente. Tutta la sera sei... Rocky Band, Rock Revolution con Non ti voglio più. Tra l'altro troverete presso Rocky Band anche sul nostro sondaggio della settimana, il momento dedicato alle band per poter entrare in rotation nella nostra emittente per una settimana e far conoscere meglio la loro musica. Adesso arriva un altro momento molto importante di Rock Revolution, il momento dedicato al live, alle canzoni più belle dal vivo. Questa sera due grandissimi successi della musica internazionale, non voglio anticiparvi nulla. Se volete potete segnalare anche voi il vostro Rock Revolution Live all'indirizzo redazione @rockrevolution.it e indicarci due canzoni che sono particolarmente a cuore in versione live. Revolution Live. St. Jimmy's coming down across the other way. Up on the boulevard like a zip gun on parade. Lights up in silhouette. Reaches up on the net. Coming at you on count of one, two. My name is Jimmy and Jeff and I'll wait out. With an angel face and a tip, but suicidal. don't you fucking wear it out. Ogni venerdì alle 21, in diretta su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. Una delle poche band attuali che scelgono di stampare la loro musica ancora sul vinile sono i Black Keys. Questa è Lonely Boy, brano tratto da El Camino del 2011. Molto orecchiabile. Questo è Rock Revolution su CRMP Radio. La musica emergente, il grande rock, le interviste importanti su CRMP Radio. Andiamo indietro nel tempo e ascoltiamo una bella canzone dei Pantera, decisamente da notte di Halloween, ma noi l'ascoltiamo stasera. Si intitola Cemetery Gates. Seems so unreal. I'm a maker of hell in this world. certamente non una tra le canzoni più conosciute dei Pantera. Questa è Cemetery Gates, tratta dall'album Cowboys from Hell del 1990. Una canzone tra l'altro pubblicata per la prima volta come traccia numero 5 per l'appunto l'album Cowboys from Hell, il secondo disco in ordine cronologico del gruppo dopo l'ingaggio del cantante Phil Anselmo di origine italiana, e il primo a presentare il tipico sound thrash metal dei Pantera, insomma il sound che conosciamo un po' tutti quanti. Altra canzone in arrivo, parliamo di Rival Song, questa è Pressure and Time. It's a shame we have to die, my dear. No one's getting

she finally said she loved me. I went her in a hurry. No more colors and I closed the fire. Hey, dreaming, I feel like screaming. I want my woman just before she died. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money and it took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ben 8 minuti quasi con Strange Kind of Woman, loro sono i Deep Purple e questo è Rock Revolution, ancora 20 minuti in diretta su CRMP Radio, poi in replica sabato pomeriggio, quindi salutiamo tutti i sabatini che ci ascoltano. Una bella canzone, la canzone dei Deep Purple per appunto, uscita inizialmente come singolo dopo Black Knight nei primi mesi del 71, pensate un po', io non ero neanche nato, neanche lontanamente nella mente dei miei genitori. La canzone ebbe un grande successo raggiungendo l'ottava posizione della classifica UK. Più tardi poi fu reinserita con una nuova versione, l'album Fireball del 1971, ed è comunque ancora oggi non una fra le più conosciute, ma una canzone molto bella da ascoltare nonostante i suoi 8 minuti e rotti. Prossimo brano in playlist questa sera è invece una canzone un po' più recente, relativamente, comunque non siamo negli anni 80, non siamo negli anni 70, siamo negli anni 80, da molti definiti come migliori anni della discografia mondiale. E loro sono i Rainbow, grandissima band, grandissima formazione, ne parleremo dopo. Questo è The Man on the Silver Mountain. Call and make me holy again. Simone, quest'estate parlavamo di pinne d'occhiali prima di andare in spiaggia per affrontare quella che poi è stata Rock Revolution Live a Lido Pollo, una bellissima esperienza estiva che ci auguriamo possa tornare anche quest'estate. E adesso ci dobbiamo mettere a parlare, insomma, di cappellini e di sciarpe, no? E di sci, direi anche. E di sci, perché insomma è previsto un tempo niente male per i prossimi giorni. Ti volevo tra l'altro chiedere adesso cosa ascoltiamo, perché mi sono un attimo distratto. Allora, adesso ascolteremo altri due brani in sequenza. Ascolteremo gli SDC e gli Erbo. Ah, bellissima sequenza, molto molto rock. Dare una scarica di adrenalina al vostro venerdì sera, sabato pomeriggio, che ricordo siamo in replica poi sabato pomeriggio. E quindi questi due grandissimi successi, molto molto rock. Tra l'altro vi consiglio assolutamente di guardare il live a Donington degli SDC. Un video molto bello, un live con una marea di persone, davvero imperdibile. Siete andati giù duri, gente, e io sono fiero di ognuno di voi, anche del più negato. Quindi cerchiamo solo di mettercela tutta, magari ci sbatteremo la faccia, ma anche ammesso l'avremo sbattuta con dignità, con una chitarra nella mano e il rock nei nostri cuori. E come dicono gli ACDC, la nostra chitarra anche stasera morderà, e a chi sta per fare rock io rendo onore. Down. ACDC e gli Airburn. Stiamo ancora sentendo in sottofondo Girls in Black, grandissimo successo degli Airburn. Siamo sempre negli anni 90. Adesso invece facciamo un bel saltone indietro nel tempo. Come sapete andiamo ad ascoltare sempre all'interno di Rock Revolution quelli che sono stati i grandi successi del passato, le novità del presente. In questo caso un grandissimo evergreen di un musicista incredibile. Parliamo di Ray Charles, questo è What I Say. Time now. Davvero una bella canzone per chiudere questa ennesima puntata di Rock Revolution. Appuntamento alla prossima settimana, chiaramente venerdì dalle 21 a mezzanotte, in replica sabato pomeriggio, e poi la replica in podcast, le foto, il video, tutto quanto su rockrevolution.it e chiaramente sul sito ufficiale della nostra emittente CRMP Radio, www.crmpradio.it, la radio che si sente e si vede. Anche quest'oggi quindi ringraziamo tutti gli amici che ci hanno tenuto compagnia, le band che ci hanno fatto conoscere la loro musica, la musica in Italia, su CRM a Rock Revolution. Saluto il mio collega Simone, ciao Simone. Ciao a te Filippo, buonanotte a tutti gli ascoltatori di Rock Revolution e di CRMP Radio. Salutiamo Ida, la nostra redazione, salutiamo voi nuovamente che ci seguite con tanto affetto. Postate sempre sul nostro profilo Facebook, mi raccomando, Rock Revolution Redazione, i vostri link, i vostri video. Siete parte della nostra famiglia, lo sapete, no? E quindi grazie a tutti, appuntamento quindi prossima settimana. Vi ricordo domenica sera da mezzanotte alle 2, Rock Revolution Love Edition, le più belle canzoni d'amore rock, 2 ore senza interruzioni. Grazie a tutti, alla prossima! Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM di Radio. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CIA.